Spesso le note di una poesia toccano e svegliano poi quei momenti nascosti dal tempo, ma rimasti dentro di noi. Io vi ritrovo ancora il sorriso di quando mi teneva per mano, la dolcezza, lo sguardo e il suo viso, accompagnarmi quando sono lontano. Solo un ricordo oppure una foto, sentire qualcosa di strano, ritrovarla sempre vicino che mi tiene la mano. Poi nella voce i racconti all'amore, nei tramonti della vita che va, per sentirmi ancora un bambino, oltre il mio tempo, oltre l'età. E ancora l'andare veloce del tempo a nascondere dentro di noi l'emozione di qualche momento, la ritrovi ancora se vuoi. Quel suo calore, quel suo sorriso, sento un suono di voci lontane, alla mente ancora quel viso, è un amore che dentro rimane. Ora il pensiero va oltre il tempo, gli anni non hanno più età, si afferri ogni momento che se ne va. Mamma ha un nome, l'amore, la vita e nel tempo si sa, mi rimane ancora il calore, vederti giovane oltre l'età. Poi la tua voce, un suono d'amore, quei tramonti e la vita che va, per restare ancora bambino, solo per mamma, oltre l'età.